Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Se siete stati almeno una volta nella vita a Catanzaro, in Calabria, quasi sicuramente avete trovato una giornata ventosa, perché Catanzaro sorge nella vallata che taglia in due la regione, la Calabria, da parte a parte, unisce il Mar Tirreno e il Mar Ionio, è un corridoio naturale nel quale il vento soffia per molti giorni durante l'anno. Catanzaro è conosciuta anche come la città delle tre V. La prima si riferisce a San Vitaliano, patrono della città, la seconda al velluto di cui la città è stata un mercato storico, la terza vista proprio per il vento, perché è un compagno abituale della città. Se chiedete ai cittadini di Catanzaro chi era il re del vento, non vi risponderanno Eolo, vi diranno il nome del calciatore di cui oggi noi raccontiamo la storia, perché a Catanzaro di dio del vento ce n'è uno solo e tra poco vi dirò il suo nome. Eh sì, perché la nostra storia non parte da Catanzaro, ma dalle Marche, un'altra meravigliosa regione italiana, dove il nostro protagonista nasce il 21 agosto del 1953. Famiglia numerosa, lui quinto di 8 figli, è un bambino come tanti, ha la passione per il calcio che è incentivata però da una situazione familiare favorevole, un ambiente questo nel quale cresce lui. È un ragazzo il cui calcio è parte integrante della sua vita di tutti i giorni. Vi devo dire a questo punto di chi parliamo. Parliamo di Massimo Palanca. Io praticamente sono nato in un campo sportivo, perché mio padre era il custode del campo sportivo di Porto Recanati, perciò sono cresciuto a pane e pallone. Eh beh sì, c'è un altro giocatore che ha vissuto una situazione simile a lui, cioè il padre che lavora nello stadio, è Johan Cruyff. Magari Porto Recanati non è l'Ajax, però insomma per il nostro protagonista Massimo è sufficiente essere il figlio del custode per essere indirizzato verso la carriera sportiva. Gioca nelle giovanili della rivale, peraltro, la Recanatese, e poi viene trasferito alla Passamonti Camerino, quindi siamo in Serie D, calcio diciamo regionale marchigiano. 72, lui segna 18 gol, si fa notare subito, e peraltro a quell'epoca giocare voleva dire aiutare concretamente la famiglia. Prendevo 15.000 lire al mese e 10.000 lire le mandavo a casa, perché famiglia numerosa, con soltanto mio padre che lavorava, era abbastanza dura, eh. Però sono riusciti i miei genitori a tirare su un'ottima famiglia. Poi nel 72 il Camerino retrocede in promozione, però lui si fa notare e nel 73 viene trasferito a Frosinone, quindi si comincia a salire, siamo in Serie C. Palanca si presenta e diventa capocannoniere della Serie C con 18 gol. Lui ha la maglia numero 11, siamo in anni in cui si giocava con numeri dall'1 all'11, è un attaccante all'istinto del gol, segna da tutte le posizioni, destro, sinistro, di testa, insomma comincia a attirare l'attenzione di squadre della categoria superiore, cioè di Serie B. Il gioco comincia a farsi duro, è difficile ottenere la promozione in A, però il problema, l'importante è non essere retrocessi nel semiprofessionismo della C. Ci sono due squadre che hanno puntato gli occhi su Palanca, la regione è la stessa, è la Calabria, una è la Regina e una è il Catanzaro, entrambe squadre che veleggiano nella bassa classifica della Serie B, ma è proprio la Regina che fa la prima offerta. Non ero destinato al Catanzaro, io ero destinato alla Regina, perché ero stato ceduto alla Regina con la clausola che se la Regina fosse rimasta in Serie B io sarei andato a Reggio Calabria. A caso ha voluto, per sfortuna della Regina, che è retrocessa, e praticamente subito dopo si è fatto sotto il Catanzaro e sono andato a Catanzaro. E così si va in Calabria, la Serie B aspetta Massimo Palanca, aumenta lo stipendio, da 15.000 lire si passa a 1.000.000 al mese, cominciano a essere soldi, diciamo che il bilancio familiare è salvo. Ma non è l'unica cosa che è cambiata, perché nella prima stagione Palanca comincia a segnalarsi, ma è ancora acerbo, fa solo 4 gol, che sono un po' pochi per un attaccante. Primo anno, come dicevo prima, è stato un po' difficile. difficile, perché forse ho risentito troppo, non so se del passaggio di categoria o del passaggio di un modo di vivere diverso. Ho avuto delle difficoltà, qualche piccolo infortunio così, e che non mi ha fatto esprimere al meglio. Quell'anno è l'anno di una delusione molto forte per la città di Catanzaro, perché arrivano allo spareggio per la promozione in Serie A. Si gioca col Verona e il Catanzaro perde. Stiamo parlando di un calcio di provincia, peraltro, dove arrivare in Serie A potrebbe essere già un traguardo incredibile, anche perché il tifo in genere è orientato verso altre squadre, in genere la Juventus, che raccoglie diciamo un po' tutti quelli che non hanno una squadra a cui tenere, una squadra del cuore, e quelli un po' così senza zona di riferimento sono tutti juventini. I colori del Catanzaro in Calabria sono stati secondari, proprio perché la squadra non aveva mai superato lo scoglio della Serie B. Però Palanca sente l'abbraccio affettuoso dei tifosi, comincia a migliorare e si allena duro per riprendere la forza fisica, per avere la possibilità di gonfiare la rete degli avversari, all'inizio di un amore che terrà legato Massimo Palanca al Catanzaro per 11 anni. Il falco e il gabbiano. Campionato 75-76, dopo aver sfiorato la promozione l'anno precedente, il Catanzaro centra l'obiettivo della Serie A. Palanca segna 11 gol, e al suo fianco ci sono giocatori dalle grandi qualità. C'è Giovanni Improta, Gianapoli, che è una mezza punta di regia. In difesa c'è un signore che si chiama Claudio Ranieri, l'allenatore Gianni Di Marzio, che con una squadra ovviamente senza grandi campioni riesce a creare un grande gruppo. E se ricordate, Claudio Ranieri, quando col suo Leicester vinse a sorpresa il campionato inglese, facendo una delle più grandi imprese di questi ultimi 20 anni, ha sempre paragonato la sua squadra al Catanzaro di Gianni Di Marzio, con grande fair play nei confronti di Gianni Di Marzio. Ranieri voleva dimostrare che l'entusiasmo e la buona organizzazione riescono anche a superare l'impasse, l'handicap di non avere grandi fuoriclasse. Così fece quel Catanzaro. La città si tinge di giallo-rosso, le strade si riempiono di bandiere per una squadra che arriva seconda e sale in Serie A. Però è una gioia che dura poco, perché quel Catanzaro non ha ancora la maturità per rimanere nella serie maggiore e, insomma, a fine campionato viene retrocessa in Serie B. Anche l'anno di Serie A non è stato proficuo al massimo, perché ci è capitato di mezzo anche il militare, tanti viaggi, l'allenatore che mi faceva giocare poco, e allora non è stato il massimo per me. Però succede una cosa che non succede spessissimo: le squadre che dalla B vanno alla A e poi tornano giù, poi magari scivolano nell'oblio, e invece il Catanzaro riesce subito a centrare nuovamente la promozione. Il campionato è il 77-78, Palanca è capocannoniere in Serie B con 18 gol. Questa volta però il presidente Nicola Ceravolo vuole evitare di ripetere questo effetto elastico, di continuare a salire dalla B alla A e a scendere dalla A alla B. C'è un aumento di capitale, vengono comprati dei giocatori che rinforzano l'organico. Arriva un allenatore, è un allenatore particolare, un romano con un carattere forte, con un atteggiamento paterno ma pragmatico. È un allenatore il cui stile può essere riassunto nella famosa battuta di Mario Brega, che è già eroe del Falco e Gabbiano: la mia mano può essere piuma o ferro. Ecco, Carlo Mazzone da Roma è proprio questo: la mia mano può essere piuma e ferro. La squadra si compatta, i risultati arrivano. Nel 78-79 il Catanzaro raggiunge un irripetibile e grandissimo 9° posto, campionato quindi concluso in sicurezza. E poi c'è addirittura la Coppa Italia, dove i giallorossi di Catanzaro arrivano in semifinale eliminati dalla Juve. Palanca con 8 reti è capocannoniere della Coppa Italia. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Massimo Palanca, attaccante del Catanzaro, quindi di una squadra di provincia non abituata a frequentare il palcoscenico della Serie A. Siamo alla fine degli anni 70, esattamente nel 79, e il Catanzaro sta affrontando il girone di ritorno a metà classifica. È un'impresa, anche perché il Catanzaro, ricordiamolo, è una neopromossa. E in panchina c'è un allenatore al quale dovremo prima o poi dedicare una puntata, Carlo Mazzone, che ha portato organizzazione di gioco, ha portato spirito di squadra, che sono ingredienti fondamentali quando non hai i soldi per fare la super campagna acquisti. E poi c'è un asso nella manica, lui, Massimo Palanca, numero 11 sulla schiena, che sta vivendo una stagione prolifica di gol sia in campionato che in Coppa Italia. Il 4 marzo 79 a Roma all'Olimpico ci sono due curve giallorosse entrambe, ma sul campo le squadre si preparano a una partita che rimarrà per sempre nei ricordi dei tifosi del Catanzaro. In questo, ecco il primo gol di Palanca, ed è un gol sul calcio d'angolo. È uno specialista Palanca su questi gol. Adesso vediamo l'azione del rigore della Roma ad opera di Zanini, che ha atterrato Rocca, ed è il rigore di Bartolomei. È il primo rigore in favore della Roma in questo campionato. Ancora un errore di Spinosi, ed ecco Palanca che è stato prontissimo a mettere in rete, a punire Conti con questo tiro violentissimo sulla sinistra. Ed ecco ancora Palanca al secondo tempo, aspetta l'uscita di Conti, non fida, è la terza rete. Eh sì, avete capito bene, Palanca col suo Catanzaro va a Roma, segna una tripletta, espugna l'Olimpico, lascia tutti a bocca aperta, segna il primo gol su calcio d'angolo, e lì non c'è vento a fare da suo compagno naturale. Insomma, il Catanzaro e Palanca realizzano un'impresa che rimarrà nella storia di questa squadra. La maglia numero 11 diventa l'unica protagonista in questa giornata storica per tutta la Calabria. Alla sera all'aeroporto di Lamezia Terme sono in tanti a cogliere il Catanzaro, si festeggia come se si fosse vinto il campionato, e i giornali il giorno dopo riportano a pieni titoli l'impresa di Palanca e sottolineano il fatto che il Catanzaro è lì a un passo dalla qualificazione per la Coppa UEFA, obiettivo che poi verrà solo sfiorato. Il nostro allenatore era Carlo Mazzone, romano, sanguigno, e a questa partita ci teneva in modo particolare. Poi i festeggiamenti a Catanzaro, dove praticamente chiamarono quella giornata dopo che sul tabellone luminoso dell'Olimpico venne fuori del 3-1 con Palanca e Di Bartolomei, chiamate Roma 3-1-3-1. Chiamate Roma 3-1-3-1 era una storica trasmissione radiofonica della RAI, forse antesignana della nostra Zanzara. Insomma, era un, come dire, un linguaggio di costume. Palanca diventa un vero e proprio eroe, gli viene dato un soprannome, O Rei, il re, è lo stesso soprannome che in Brasile avevano dato a Pelé, ma qua siamo in Calabria, a Catanzaro. Nel campionato successivo, 79-80, le cose non vanno per il verso giusto, il Catanzaro è eliminato dalla Coppa Italia, poi viene risucchiato dalla parte bassa della classifica, a fine campionato arriva 14esimo e a retrocesso in Serie B, il sogno sembra finito. Però c'è un però, perché il 1980 è un anno storico per il calcio italiano, è l'anno delle camionette della polizia negli stadi, me lo ricordo bene quel momento, inizia il 90esimo minuto e si vedono i poliziotti che entrano negli spogliatoi per arrestare dei calciatori. Succede il finimondo, il Milan e la Lazio vengono retrocessi, il Catanzaro viene ripescato, rimane in Serie A, arriva un nuovo allenatore, coriaceo, un duro, Tarcisio Burnic, e poi ci sono dei giocatori nuovi, c'è Massimo Mauro che è cresciuto nelle giovanili del Catanzaro, ma c'è una stella ed è sempre lui, Massimo Palanca, che in quel campionato 80-81 segna 13 gol, si classifica secondo nella classifica cannonieri dietro a Pruzzo e davanti al Altobelli, allo stesso Altobelli che pochi mesi dopo sarà uno degli eroi a Madrid nella vittoria del campionato del mondo di Spagna, mentre lui, Massimo Palanca, non è mai riuscito a entrare nel giro della nazionale, ha giocato solo una volta in quella che Berzot chiamò nazionale sperimentale nel 79. E d'altra parte questo è il prezzo che si paga a giocare in provincia, in genere insomma gli allenatori per vari motivi anche non bellissimi tendono a convocare i giocatori delle grandi squadre, e Palanca lo sa, dopo 11 anni trascorsi a Catanzaro prova il grande salto e sente il desiderio di cambiare maglia alla ricerca di una squadra più importante per fare il grande salto di qualità, e arriva una telefonata da Napoli. Per me Napoli era il massimo, perché avevo voglia di misurarmi in una grande piazza, di provare a lottare per altre cose, altrimenti non avrei mai lasciato la Calabria. Però nella vita le cose non sempre vanno come ci si aspetta. Probabilmente una delle componenti fondamentali della bravura, della concentrazione e quindi della consacrazione di Massimo Palanca era stato l'affetto del suo pubblico, quello che ogni domenica sfidava il vento per incitare la squadra dagli spalti del comunale di Catanzaro. Così Palanca esordisce in maglia azzurra nell'agosto dell'81 e ci sono due partite di Coppa Italia. Entrambe le partite hanno una caratteristica, che Palanca viene chiamato a tirare un calcio di rigore, ma purtroppo in entrambi i casi il rigore lui lo sbaglia. Ho avuto la sfortuna o l'incapacità di sbagliare questi due calci di rigore in Coppa Italia, uno il mercoledì e uno la domenica. Mi ha condizionato abbastanza, ma non solo quello, perché ero abituato gli anni precedenti di avere intorno un certo clima. Invece lì ho visto che questo clima veniva un po' meno, e allora è andata come andata. E quello è stato il più grande rammarico della mia carriera calcistica. Eh sì, accade spesso che un giocatore che in provincia è considerato il migliore, un eroe, quando entra a contatto con squadre più grandi, dove ci sono grandi campioni, dove c'è più pressione, dove c'è un clima più formale, meno attento ai bisogni dei singoli, non riesca a far esprimere la sua classe. Mi ricordo io i nonni di Marsala. A Marsala c'era un giocatore che si chiamava Gaspare Umile, grandissimo, poi arrivò a Napoli, non riuscì a fare il grande salto. Insomma, per Palanca è la fine di un sogno, un po' un colpo d'ala verso il basso, è il rimpianto per aver fallito la grande occasione. E dopo questa stagione non esaltante, un gol segnato al Napoli in tutta la stagione, Palanca va a Como. L'anno dopo torna a Napoli per un'altra stagione che non va bene. Al termine del campionato 83-84 lui torna dalle sue parti, viene ceduto al Foligno in C2, due stagioni in cui segna 18 gol, ma che ovviamente segnano la parabola discendente di un giocatore che sembra non avere più nulla da dire al mondo del calcio. Però succede spesso che quando nessuno ha più fiducia in te arriva la chiamata di un vecchio amico che non ti ha dimenticato e che magari sa che hai ancora tanto da dimostrare. I colpi d'ala dell'ultimo momento sono i più belli, quelli che mi esaltano di più. E così nell'86 il Catanzaro chiama ancora Massimo Palanca per vestire la maglia giallorossa numero 11. Sono cambiate molte cose, siamo in Serie C, Palanca ha 34 anni eppure Orei torna a far vedere la sua classe al suo popolo. A Catanzaro non potevo andare e fare la figura del pensionato, io volevo fare veramente bene. Infatti andai, che il Catanzaro giocava in Serie C, vincemmo il campionato, vinsi la classifica dei cannonieri, l'anno successivo sfioramo la Serie A. Eh sì, è il colpo d'ala, la grande rivincita di Massimo Palanca dalla C alla B, e poi in B il Catanzaro fallisce la promozione per un punto. Palanca peraltro si sente responsabile, perché in una partita contro la Triestina ci si mette di mezzo ancora una volta un rigore che lui sbaglia e scoppia a piangere in campo, e il pubblico invece di coprirlo di fischi lo applaude ancora una volta. Lì ho avuto una crisi poi di nervi e mi ricordo che tutto lo stadio ha capito il mio dramma, ha capito la situazione, mi sono stati molto, molto vicini, e questo è stato un altro episodio in più per cui io mi sento legato a Catanzaro. E oggi Massimo Palanca vive a Camerino, ha un negozio di abbigliamento, ha fatto l'osservatore per un certo periodo, poi si è accorto del grande cambiamento che ha fatto il calcio, ha preferito farsi da parte. E però rimane questo rapporto meraviglioso tra un uomo e una città, perché a Catanzaro anche i ragazzini più giovani sanno chi è Massimo Palanca, e lui rimarrà per sempre il re del vento. E noi vi aspettiamo con altre storie, segnalatevi a mail al falco il gabbiano @radio24.it. Se conoscete una storia che merita di essere raccontata, interagite con me sul sito di Radio 24, sui miei social Facebook, Twitter, Instagram, insomma lo sapete, se volete mi trovate. Ciao, a lunedì. Il falco e il gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Dodo Chipinti. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.